YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Questa settimana è molto importante per Daniele Bellasio, che finalmente è entrato nello studio presidenziale di Radio 24. Nello studio di Focus. Nello studio della zanzara. Pazzesco, infatti la voce si sente meglio, è una voce più presidenziale. Com'è? È bella la sensazione, ti piace? Molto, mi piace. Poi lo raccontiamo che a tavola abbiamo scoperto perché sono 140 caratteri, peraltro titolo che ti dovrebbe essere un po' a cuore. Eh, no? Come, sì, che conosco abbastanza, sì, sì. Io ho capito perché 140 caratteri, perché ci deve stare un bacio Perugina, una delle frasi. Vuoi dire che me... abbiamo fatto un peccato di gola, abbiamo mangiato... No, non diciamolo. Vabbè, però l'abbiamo fatto per scoprire, sì, perché 140 caratteri, sì, perché deve starci un bacio Perugina. Ok. Mio era nulla è difficile per chi ama, che uno potrebbe pensare Shakespeare, invece è Cicerone. Ecco, il tuo? Il mio lo lascio alla sua suspense. Il mio lo leggo no, dopo. L'hai dai. Perso, no, l'hai perso. No, ce l'ho. No, l'hai perso. Comunque, allora, l'hashtag della puntata non è più cancelletto Radio Tube, ma è io odio Escita. L'hashtag dell'Eurovision. Mm-hmm. Noi abbiamo capito, mm-hmm, che tu in particolare, tanti avete seguito l'Eurovision, c'è anche chi è andato fino a là. Adesso basta. Per sì, l'ultima volta ne parliamo. No, poi basta. Ma anche su Twitter basta. Alla radio possiamo persino parlarne, ma è su Twitter. Se voi ti volete prometto che poi non ne parliamo più. L'account è @MartaCagnola. Aspettate ancora qualche giorno a seguirla, se non la seguite già, perché ancora per qualche giorno andrà avanti con l'Eurovision. Fra qualche giorno ci lascerà in pace. Se invece volete parlare d'altro o odiate Escita, potete seguire mi hai fatto impappinare, @DiBellasio. L'hashtag, oltre a io odio Escita, è cancelletto Radio Tube. Parliamo di premi. Sì, competizioni. No, non l'Eurovision, ne parliamo dopo dell'Eurovision. Allora, no, abbiamo parlato del fatto che tu porti bene. Questa sono preso dallo studio presidenziale, sto prendendo in mano, basta, non sono, faccio tutto, faccio ormai tutto ti senti un po' cruciale. No, basta, allora ti lancio la cosa. Sì. Tu porti bene e avevi scoperto Conchita Wurst. Ma soprattutto ti avevo costretto ad andare a vedere un film qualche mese esatto, fa. Esatto. Io ho detto, guarda che esce questo film, bellissimo, vallo a vedere appena esce, anzi... ti porto in studio tutti gli attori. E come risponde sempre Daniele, adesso anche questo lo sveliamo, lui risponde mi fido. Sì. Hashtag mi fido. Tra l'altro il titolo del loro film si può benissimo riferire a Non parlate più di Escita. Smetto quando voglio. Ecco, smettila. Dopo questa puntata. Smettiamo. Cosa hanno fatto? Vi ricordate, no? Erano venuti a Radio 24, simpaticissimi, i ragazzi che avevano inventato questo colpo gobbo per ovviare ai problemi di precarietà, diventavano praticamente dei pusher. Adesso hanno deciso di fare quello che farebbero tutti quelli candidati a un premio: non vincerlo, ma rubarlo, certo. E hanno fatto la parodia di se stessi. Sentiamoli qui. Ci caleremo nelle fogne accanto all'auditorium. Praticamente non c'è nessun sistema di sorveglianza, non ci sono gai, non c'è nessun sistema d'allarme già controllato. C'è già Arturo col furgone lì appostato che sta studiando tutto quanto. A quel punto passiamo da qua, arriviamo alla stanza dei trofei, buco nella parete ed è fatta. E vuoi rubare la vita di Donatello? Ragazzi, vi ho detto che conosco la stanza dove li custodiscono. È un attimo! Così dopo l'Oscar pure il David sarà nostro, e dai! No, scusa, quale Oscar? Questo. Ma c'è sta scritto la grande bellezza. Ma che gli hai fregato? Vabbè, ma con un po' di pasta abrasiva ti cancellano. Beh, straordinario, hanno rubato l'Oscar di Sorrentino, ma hanno lanciato anche un hashtag. Sì. L'hashtag è Vota Aprea, cioè sì, per il candidato Valerio Aprea, che è uno degli attori del film. Perché hanno 12 nomination. No? Hanno invaso Twitter, ma soprattutto per quella di Valerio Aprea, con questo Vota Aprea. Johnny Palomba, notissimo critico cinematografico, notissimo. I giurati del David sono circa 1600, per la teoria dei 6 gradi di separazione potete convincerli tutti, hashtag Vota Aprea. Ai David, senti questo viola un po' la par condicio, eh? Divano giallo, ai David, vota Aprea, ma fallo anche alle europee. Chissà, magari. Ma chissà. Poi qualcuno si chiede, Goliardi e Venusti, vota Aprea per il Nobel, giusto? Insomma, hanno invaso Twitter con questo vota Aprea. Anche noi diamo il nostro sostegno a tutte le candidature di Smetto Quando Voglio. Ah, solo di Smetto Quando Voglio. Ma io voglio bene anche a Virzì, però Smetto Quando Voglio. No, tifo. Tra poco c'è il traffico. Sì. E poi parliamo di Eurovision. No. Per convincerti a parlare di Eurovision, sai cosa ti permetto? Che avremo con noi tra poco Eddie Anselmi. Va bene. Radio Tube. Rieccoci insieme per parlare, finalmente, di Eurovision. Non se ne parla mai. No, Daniele, io te l'avrei risparmiato, ma questa settimana era impossibile non parlarne. Beh, certo, bastavate tu, Stefania Carini, Eddie Anselmi, Domenico che abbiamo Naso. Il telefono, ti ha rubato tutta la trasmissione. Domenico Naso, Pop Topo, i Checkers, insomma tutti gli account di quelli che erano... Io vi ho bannato per qualche ora. Lo so che ci hai silenziato. Ha partecipato persino Nomfup, che è un account, che non violiamo la par condicio perché è un account. E oltre che un maestro. Però adesso questa è una china pericolosa. Per chi avesse seguito questa settimana i social network. Sì. I giornali, i siti, le televisioni, le lacrime. Allora, diciamo, per chi questa settimana la avesse festa, avuto le tipo, barbe. Ecco, per chi questa settimana avesse avuto tipo, non so, l'influenza o fosse stato su Marte. Ecco, dobbiamo spiegare che è successo qualcosa in Danimarca. Sì. Cioè, non c'è del marcio, c'è della barba in Danimarca. Sì. Eurovision. Anche in Austria. Eurovision. Sì. Il concorso della canzone europea, del quale abbiamo abbondantemente già parlato a Radio Tube, si è svolto finalmente in Danimarca. E noi ve l'avevamo detto, ma che brutto dire, però è vero, ve l'avevamo detto. Come abbiamo avuto, l'abbiamo scoperto noi. Che dovevamo tenere d'occhio una cantante. Per la verità voi non eravate certi della vittoria. No, io ti dico la verità, ero convinta che sarebbe stata la vincitrice morale, ma pensavo che la vittoria sarebbe andata dall'altra parte. E invece... Ha vinto Conchita Wurst, che mi hanno detto si può tradurre in italiano tipo Bernarda Salsiccia. No. Sì. Ma no, non dire certe cose. Ma non ho detto niente, ho fatto una traduzione di Conchita Wurst. Ha vinto. Ha battuto di un'incollatura Emma, no? Mi pare. Paio di incollature la candidata italiana. Ha vinto il concorso dell'Eurovision con questa canzone. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life. Rise like a phoenix. Non ti sembra di essere un film di James Bond? Ah, giusto, tu hai questa tesi che è un po' un tema di James Bond. Così immaginati lingue di fuoco, una donna bellissima che canta in mezzo al palco, ma ha la barba. Ecco. Come ha twittato il grande comico satirico e autore di vignette satiriche in rete Emiliano Carli, ha la barba spaziale. Sono impreparato più del solito. C'è Fabio Cantadori in regia che applaude. Non l'avevi visto? Ha la barba spaziale. Ma ne parliamo ovviamente. Poi ci si domanda perché uno odia Escita. Ma sai che chi ha una sua teoria? Guarda, ti ci faccio parlare subito. Buonasera Eddie Anselmi. Buonasera Daniele, buonasera Marta, buonasera all'ascoltatrice e agli ascoltatori di Radio Tube. Beh, siamo tornati. E allora io l'ho detto a Eddie, guarda Eddie che Daniele non sopporta più l'Eurovision. E sai lui cosa ha detto? È come il Natale. Ah. È come quelli che hanno odiato il Natale però a Capodanno. Adesso c'è un anno ancora, arriveranno quando ricompleremo gli alberi. E dove andate l'anno prossimo? L'anno prossimo andiamo a Vienna, appunto. Cioè Vienna, penso a Vienna, insomma, comunque in Austria, perché ha vinto Concita. E quindi Eddie, però, allora noi tutto ci aspettavamo un Eddie successo. Aveva pronosticato la Gran Bretagna. Eddie aveva pronosticato la Gran Bretagna, che però non è andata tanto bene. Io pensavo l'Olanda. Io pensavo che la Svezia crollasse e che la Gran Bretagna tenesse. Invece è successo il contrario, quindi... Io invece avevo azzeccato il podio, cioè i tre nomi, cioè Svezia, Olanda e Austria, ma avrei detto Olanda, quindi non ho azzeccato la vincitrice. Ho azzeccato il podio, ma non la vincitrice. Una cosa che sicuramente io non mi aspettavo era quello che è successo dopo, cioè una mania per Conchita Wurst in tutti i siti, i siti dei giornali online, i social, cioè... Tutti hanno parlato di Conchita Wurst. Eddie, tu, ripetiamo che insomma, per chi non lo conoscesse, ma chi ascolta Radio YouTube lo conosce, Eddie non solo è uno storico del Festival di Sanremo, uno storico dell'Eurovision, ma a Copenaghen era il vice capo delegazione, diciamo il capo delegazione aggiunto della spedizione italiana. Capo quindi, aggiunto, ecco, sì. Quindi lui l'ha seguita proprio da vicino e da protagonista. Te l'aspettavi questa follia per Conchita? No. Conchita nel mondo eurovisivo era quella che aveva provato senza successo a rappresentare l'Austria 2 anni fa con una canzone molto meno sofisticata, molto più da drag queen, I Am What I Am si chiamava, con un messaggio insomma da un po' da Sese Peniston, da Gloria Gaynor Wannabe. Era stata eliminata da un gruppo di rapper che cantavano Muovi un po' di dietro, in maniera un pochino più pittoresca, in dialetto del sud dell'Austria. Avevano eliminato Conchita Wurst, quindi per noi era un personaggio così, era già nel presepe eurovisivo la sua entrata l'aveva fatta, e questo le ha permesso di preparare tutta la campagna di avvicinamento all'Eurovision sotto vento, senza che le sue mosse abilissime, perché comunque che era il personaggio lo si sapeva, fossero percepite, fossero notate. Non è stata favorita, non è stata appena andata in, perché è un concorso televisivo, il pubblico, ma il pubblico di Portobello, perché l'Eurovision è un concorso per famiglie, chi lo segue sul posto è un campione deformato rispetto a quello che in effetti sta a casa e col telecomando in mano, col telefonino manda i voti. Ma il pubblico di Portobello ha reagito alla contaminazione, al prestigio, al gioco di prestigio di Conchita, votando dall'Islam al Portogallo, dalla Russia all'Italia. In Italia è arrivata seconda al televoto. Senti, tra l'altro la cosa che ha stupito tutti, e questa è una domanda seria, perché lo dicevamo anche l'altra volta, poi si innestano in un concorso di canzoni anche poi problemi di geopolitica, problemi molto più profondi, insomma li abbiamo sentiti, i fischi per le due gemelline russe che erano due ragazzine piccolissime. Quello è stato un momento molto ingeneroso, sì. Perché a pregiudizio di una certa parte della società russa si è risposto con altrettanto pregiudizio verso un'altra parte che non c'entrava niente, perché non si fischia, ha risposto un collega russo, un membro dell'ABU, supervisore esecutivo del Junior Eurovision, dice: ho tante cose da dire alla politica degli inglesi o degli spagnoli, facendo gli esempi concreti, ma non fischio i loro artisti. Se ambasciatore non porta pena, figuriamoci cantante, cioè, appunto. O cantante. Ma tra l'altro sai, Daniele, che è andata benissimo al televoto con Conchita Wurst in Russia, ma è anche molto scaricata, molto scaricato l'MP3, quindi alla fine... Intanto è una bella canzone. Beh, è una bella canzone, sì. Direi che Conchita Wurst ha forse riportato una canzone, oltre che il personaggio, cioè è riuscito a mettere insieme le due cose, canzone e personaggio, se no, se avesse portato... Cino Pio e avesse vinto solamente col personaggio, non credo che Elton John le avrebbe fatto le congratulazioni. A me è piaciuto moltissimo il tweet di Cher, che le ha detto in maniera molto carina: ti meriteresti un nome più carino e anche una parrucca migliore. E l'ha trovato veramente carino. C'è un altro argomento molto dibattuto. Sì, qui dobbiamo no. parlare anche ah, di questo. Ah no, sì, questo ho twittato persino io di Escita a quel punto. Sì, canzone introduciamolo. Bella. Mi piace. Insomma, ma a te era piaciuta Daniele la canzone? Beh, è rock, dai. Non è andata però benissimo. Ma mi avevi detto lì, zona UEFA, no? Quasi come in zona retrocessione. Inter, no. Quasi no, in zona retrocessione. Vabbè, sono arrivata in Tunisia. Ecco perché, allora, per quello però, che ha pianto. Allora, dici. Allora, intanto chiediamo a Eddie conferma se... per quello che ho visto che c'è rimasta male, Diciamo che forse le cose ma che sono diffuse che in rete... Ma non è che cantando in italiano era svantaggiata? Chiediamo tutto a Eddie. Eddie, secondo te... No, non c'è rimasta, c'è rimasta male perché obiettivamente il numero è lì e sullo schermo è freddo, uno fa i suoi conti e dice beh, poteva andare meglio, quindi magari sì, 3 minuti, 10 minuti, quella camminata fuori, uno ci ripensa, poi dice vabbè, insomma, è l'Eurovision, poi come a ciclismo, se rimani nella pancia del gruppo non partecipi alla volata, poi arrivi... 21esimo rimane sugli almanacchi e poco altro. No, più che altro come il calcio, che siamo forti in casa, ma poi dopo quando andiamo a giocare le coppe europee siamo un po' in difficoltà. Forse dobbiamo imparare mano a mano a conoscere sempre meglio le altre squadre europee, perché finora ci abbiamo giocato per troppo tempo. È una battuta dal resto di tabellone, dopo che viene comunque dopo 4 risultati positivi. Io non direi così. Eurovision Italia. Farà tesoro anche di questo apparente stop. Allora, per concludere, io intanto personalmente ringrazio Eddie, tutta la delegazione italiana, anche la delegazione di San Marino, perché sono stati molto generosi con me, lo devo dire, perché è stata una bellissima esperienza questo Eurovision. Eddie, ti faccio una domanda secca, ma secondo te l'anno prossimo chiunque partecipi per l'Italia dovrà cantare ancora in italiano o è meglio che canti in inglese? Non è, è totalmente irrilevante. Quando c'è un progetto, un visual, un progetto discografico, di tour, di immagine della cantante in certi paesi, in tutti quelli che prendono parte all'Eurovision, la lingua non è importante. Straordinario. No, no. Ecco. Ma com'è che si decide chi ci va l'anno prossimo? C'è tutto un gruppo di studio, una commissione molto attenta. Tu Eddie siete lì, c'è tutta la delegazione italiana che è al lavoro con... Sai, una e cosa quando scientifica, si sa, più o meno? Quando si saprà, secondo te, Eddie, quando ci sarà la scelta? Diciamo che in le cose con ordine, verso la fine di novembre, verrà annunciata la conferma della partecipazione dell'Italia. In funzione di quella data e in funzione anche di quella conferma, che comunque avviene formalmente verso l'ultima settimana di novembre, parte l'iter per scegliere. Preparati Daniele, la verità è che Daniele non è venuto a Copenaghen, quindi non ne vuole sentire parlare perché non è venuto e sole invidia. Guarda che poi dopo ci dicono che violiamo la par condicio se continuiamo a parlare di cose europee. Erano solo canzoni. Ce l'hanno scritto, sì, perché parlavamo di Europa, siamo canzoni. È un continente, sono canzoni. Eddie, grazie per essere stato con noi, a prestissimo Eddie Anselmi, grazie, buona Daniele, serata. Grazie Marta, ciao. Grazie Radio Tube. Allora Daniele, mi lasci twittare ogni tanto sul un tweet ogni io, tanto io ti faccio l'hashtag io odio escita. Va bene. Radio Tube. Rieccoci con la seconda parte del nostro Radio Tube del sabato, perché vi ricordiamo che c'è anche il Radio Tube del cuore di Daniele. Certo, quello della domenica alle 15 domani. Sì. Lo diciamo già chi c'è domani? Domani proprio una star. La logica non è sincera. E chissà se l'hanno indovinato. Dai, non lo diciamo. Non lo diciamo. La logica non è sincera. Non è sincera. Diciamo i nostri account. Giusto? Diciamo questo è il momento mio. Sì, dai, vediamo se ti ricordi. Signorino, buonasera. Et Marta Cagnola. Et Di Bellasio, hashtag RadioTube, non scherzo più su Eurovision perché basta. E poi c'è anche il podcast. Ma che bravo, ti sei ricordato anche il podcast. A questo punto me lo sono ricordato. Di cosa parliamo? Allora, io ho letto un libro in questo periodo, io sono diventata pazza di questo libro. Ah, vuoi parlare di un giorno? Però scrittori, autori televisivi, sceneggiatori, c'entra, vedi? Sì, perché io ho il vizio di farmi consigliare dei libri. Daniele mi ha consigliato un libro per cui ho pianto 2 settimane. Basta, non voglio parlare di questo libro. Io vorrei cominciare a fare sentire un po' di musica, perché la musica del book trailer, perché adesso ci sono dei book trailer, ha delle scritte, quindi ve le leggerò io. Adesso mi impegno anche per declamarle. Eccolo qua. sociable con la luna. Molto famosa, molto rifatta, molto morta. Questa è la storia della famosa presentatrice televisiva Edda Dolci, della sua morte all'apice del successo e di come fregò quasi tutti. Una black comedy sulla TV che cambia e su come la TV ha cambiato noi. Vabbè, insomma, non c'era la voce. Nel book trailer ce l'ho messo io. Buonasera, Peppi Nocera. Quasi quasi facciamo un'altra edizione con la tua voce. Molto seguente. Ci stava benissimo, ci stava con Antonio Macin, la tua voce. Sì. La presentatrice morta. E già il titolo ti deve un po' spaventare, con questa copertina col cagnolino adagiato su una poltrona. Lo sai che una famosa casa, come si dice, no? Una famosa catena di librerie, l'ha messo nei gialli. E io sono rimasto un po' così, perché sì, c'è un tessuto. Dove dovresti giallo andare? Beh, sulla narrativa italiana, spero, sai, vedi la presentatrice morta sui gialli, pensi davvero che sia un giallo? Lo è, però non è proprio un giallo, insomma, ecco, così. Quindi sono un po'... Allora, ci sono un sacco di recensioni positive per questo romanzo, divertenti, proprio un distillato di essenza pop. Adesso sì, poi vi spiegherò anche perché. Però io vorrei leggere a Daniele una recensione che so che ti scalderà il cuore. La recensione è: c'è un po' di Peppi in ognuno di noi, ne sono certa, firmata da Ambra Angiolini. Vabbè, ma non svelare tutte le mie preferenze alla radio. Lui è un po' Ambra folle, diciamo. Quindi Peppi... No, però è molto vero. Sì, no, è proprio vero, perché allora la premessa è che Peppi Nocera ha firmato due decenni. Abbiamo appena saputo che c'è l'anniversario. E sono vivo. No, nel senso che è un po' Ma lo posso fare io? Sì, sono segnato a mano. È vero. Non è la Rai. Stranamore, Matricole, Meteore, il brutto anatrocolo addirittura inventato direttamente da lui, tutto, spero, tutta giusto. Colpa sua. Saranno famosi, quindi Amici di Maria, L'isola dei famosi, X Factor, cioè, tutto. Manca e solo adesso Dallas, ma è solo perché era negli Stati Uniti. E soprattutto perché era prima, Dallas era molto pazzesco tempo fa. Quindi, allora, responsabile, corresponsabile di gran parte del nostro immaginario pop di questi anni, sì, con uno sguardo però molto lucido sulla realtà televisiva. Infatti la presentatrice morta, che peraltro poi ti chiederò perché è nato anche dal tuo blog, quindi abbiamo molto a che vedere con la rete, è la storia della morte, morte, diciamo così, chissà. Sì, della morte. Morte di una presentatrice televisiva. Sì. Quindi tu racconti la sua storia, racconti anche il mondo della televisione e racconti una certa Roma. Insomma, nell'anno della grande bellezza tu racconti un'altra Roma molto interessante. Da dove vuoi che parta? Perché no? Perché io racconto innanzitutto di cattiveria, che è una cosa molto che a me interessa molto, mi affascina molto. La cattiveria degli altri ci rende più buoni. Cioè, no, quando, cioè, non solo le cose buone ci fanno diventare buoni, ma quando tu vedi delle nefandezze, delle spietatezze, e pensi sempre: beh, ma io non sono così cattivo. Ecco, allora il tessuto che c'è nel libro è molto sulla cattiveria. La televisione sì, c'è, viene anche descritta, però è perché, insomma, avendola fatta per 20 anni ne so, quindi diciamo che mi veniva più facile ambientarla nella televisione. Da Dolci, che fa la presentatrice, in realtà potrebbe fare qualsiasi altro tipo di lavoro di grande importanza e grande potere, diciamo, perché è una torbida ricattatrice, cattivissima. Ma sì, e poi c'è Roma. Sì, Roma, la fascetta del romanzo è un po', posso dire, burina, nel senso che Longanesi insieme a me, non è che sono corresponsabile, hanno scritto La grande bellezza di un sorprendente esordio, una cosa di questo genere, ma perché mi interessava far capire anche che si parlasse di Roma, e dal punto di vista di un romano come me, che non ci vive più perché è scappato a gambe levate, pur amandola molto, ma insomma, è molto difficile viverci, e quindi la descrivo. No, tra l'altro c'è questo fatto che in rete si discute molto di questa cosa di Roma Nord. Eh sì, Roma Nord, ragazzi. Hai detto, riconosco Roma Nord, quel mondo, da poche... Sì, dalla cadenza, dalla sì. Sì, sì, si può riconoscere. Beh, perché è tutto quella zona che va dai prati e poi sconfina verso Parioli, Flaminio, Vigna Clara, Cassia, anche Balduina. Che, e è che mondo è? Che mondo è? È difficilissimo. Come emerge dal libro? Diciamo. Io sì, ho fatto un quadrettino, per esempio, no, perché tu hai detto forse una nemesi nei confronti di Roma, hai detto da qualche parte. Sì, perché Roma, io figurati, come non, per carità, viverci, cioè vederla è bellissimo, abitarci un po' meno. Io sono scappato da Roma, non la frequento più, nel senso che la frequento per, non so, commercialisti, per la dentista, e sono riuscito, ormai sono bravissimo, riesco a andare e tornare in 4 ore e mezza, cioè vado in motorino di corsa, Marinate, mi affitto una smartina, vado dal dentista e torno, tutto in 4 ore e mezza. Diciamo, però è raro, un romano così conquistato da un'altra città. Non è vero, perché guarda, io lavoro, quindi quando, cioè, tutti lavorano, diciamo che il mondo durante la televisione, come si vede, invece è un inferno, per cui lavori tantissimo, quindi lavori dentro uno studio, quindi lavorare dentro uno studio ci devi lavorare bene innanzitutto, e Milano, per carità, è perfetta per questo, e lavori sempre, quindi lavori tutti i giorni e sei molto stanco, quindi non esco, io non esco nemmeno a Milano, e quando non esco, quando finisco di lavorare parto, insomma sto meglio, ecco, da usare più non facile, sei distratto, diciamo, sì, ecco. Una città che da usare più facile, quindi? Allora, noi spesso parliamo tantissimo, parliamo soprattutto di social network in questa trasmissione, sì. E i social network ormai vanno di pari passo con la televisione, in tanti passaggi della presentatrice morta se ne parla. Etta Benetti cambia la visione della tele, è il payoff scelto per la campagna, l'ideale per scatenare gli odiatori che su Twitter hanno prodotto svariati 140 caratteri di dileggio. L'autore televisivo, quale tu sei, oltre che ormai anche romanziere di questo romanzo, quanto mi è piaciuto, quanto l'autore televisivo sbircia la social TV, lo si fa? Quanto l'autore televisivo, quanto poi i conduttori, chi va... ce lo chiediamo spesso. Io non so se è per i follower che ho o per quelli che seguo io, insomma la mia timeline si carica di tweet quando c'è un evento televisivo, forse perché magari se seguissi più, non so, appassionati del Milan o della Juventus, forse sarebbe diverso, ma insomma diciamo che la televisione ormai è diventata, cioè Twitter è diventato molto filtro di critica televisiva, chiaramente ti devi aspettare di tutto, soprattutto le critiche, insomma è più divertente prendere in giro una trasmissione o una fiction che dire quanto è bella, a me non capita, vedo più molte più critiche, tu non so, pure tu quando vedi... Ti diverti di più a bastonare, sì, e anche, voglio dire, se tu scrivi quanto è bello quel programma, magari c'hai pochi preferiti e pochi retweet rispetto a una battuta di medio gusto rispetto a una cosa televisiva. Sì, certo, è importantissimo, soprattutto gli addetti ai lavori, state sicuri che le guardano, le leggono, stanno là fissi a leggere tutto. Tra l'altro, in un'intervista che hai fatto con il Venerdì, tu hai citato anche un caso particolare dei blogger televisivi, tu citavi Lord Lucas, che è uno dei cattivoni, con il quale io ho un rapporto conflittuale da parecchio. Ogni tanto vi vedo litigare, ci sono svariati cattivoni, c'è Lord Lucas, c'è Davide Maggio, col quale invece ho litigato io la scorsa settimana. Nomi che chi non frequenta la rete non dicono assolutamente nulla, e invece questi blog televisivi sono importantissimi. I televisivi li leggono parecchio, perché io lo so, perché molte volte, come ho scritto sul Venerdì, sono dovuto stare in camerino a dire a conduttore e conduttrice che leggeva qualche critica, per esempio di Lord Douglas o di qualcun altro, e dire: ma un attimo, stai un attimo calmo, sereno, calma, non ti preoccupare, andiamo avanti, adesso non è che possiamo parlare ancora della cattiveria detta, ma non per sminuire, per carità di Dio, però francamente uno fa il suo percorso senza... Questo è. E invece, capito? Perché noi spesso... No, infatti hai anche detto che nei camerini posti di molte lacrime, addirittura. Beh, insomma, la televisione si fa e siccome non è niente, è tutto scritto, ma tutto può essere stravolto in un secondo. C'è, insomma, io ho frequentato dei camerini, diciamo, c'è non tensione, so. Tensione, la tensione. Beh, insomma, che ti posso dire, X Factor, certo non è una passeggiata, è stata una passeggiata quei camerini là, ma anche di risate, adesso non voglio fare una tragedia, eccetera, anche di grandi risate, grande complicità. Ma anche di grandi tragedie. Ogni tanto quando siamo in televisione ci dimentichiamo che stiamo facendo semplicemente la televisione e quindi non stiamo veramente facendo vaccini, quindi però sai, prendi il tuo lavoro con importanza e quindi lo carichi di tensioni magari un po' eccessive. Allora, vai. No, dobbiamo interromperci solo per qualche istante perché cosa c'è? Vediamo se lo sai cosa c'è. Beh, abbiamo di nuovo traffico a Copenaghen. No, il traffico in Italia. Radio Tube. La presentatrice morta, che bel titolo per un romanzo del quale stiamo parlando in questa puntata di Radio Tube, che insomma, come passa veloce il tempo quando ci diverti, abbiamo gli ultimi minuti, ma abbiamo in studio con noi l'autore di questo romanzo edito da Longanesi, che è Peppi Nocera. Ancora buonasera Peppi. Ciao. Abbiamo sentito un pezzettino del book trailer ufficiale, ma c'è anche, caro Peppi, un book trailer non ufficiale. Sì, molto spiritoso. È straordinario. Non so se tu lo sai, ma si possono far vedere i video. Allora, noi, sempre... noi ci proviamo. Sì, sì, noi mostriamo il book trailer unofficial alla radio. Roma, un terribile fatto di cronaca, getta nello sconcerto il mondo dei VIP e quello delle persone comuni. Eda Dolci, sacerdotessa incontrastata dei programmi più seguiti del piccolo schermo, bella, alta, potente, brava, la regina di tutto quello che le riviste patinate chiamano show business, viene ritrovata morta nel suo appartamento durante la festa del suo 58esimo compleanno. E questa è una parte del book trailer. Beh, non ufficiale. Però diciamolo che è una presa in giro di chi l'ha visto. Di chi l'ha visto. Sì. No, perché quando Daniele l'ha sentito ha detto sì, ma io cosa... ho detto è una via di mezzo tra Salvo Sottile e Jeb Gambardella. No, è Gian Loreto Carbone. Lo so. Lei, ma è ancora... un mito assoluto. È un omaggio a Gian Loreto. Che era un po' sparito Gian Loreto Carbone. Adesso è ripreso con questa storia di Elena Ceste che tu non sai, ma è lunghissima. No, io non so nulla. Perché è proprio fa parte del format ti occupi di questo. Perché no, è che Gian Loreto Carbone per un po' era sparito, quindi tutti erano un po' in ansia su Twitter perché non c'erano i servizi di Gian Loreto. Adesso è tornato e siamo tutti tranquilli. Benissimo. Quindi un omaggio al grande Gian Loreto Carbone. Ma veramente un omaggio. Apprezzi che non ti abbiamo ancora chiesto ma esiste nella realtà il personaggio ispirato a qualcuno? Siamo ma bravi. La domanda... siccome ho saputo che qualche presentatrice ha detto ma che sono io. Ho fatto una cosa su Facebook che ha riscosso abbastanza successo perché ho scritto, non mi ricordo bene le parole, ma ho scritto: vorrei rassicurare tutte le presentatrici che vanno in giro a chiedersi se sono loro la presentatrice morta, di star tranquilli perché è l'altra. Panico. Beh, però che risposta stupenda. ma immagina cosa non è venuto ma fuori. Ma no, non è nessuno, perché francamente voglio dire, essendo attratto appunto dalla cattiveria, loro non sono niente a cattiveria rispetto ad Eda Dolci. Eda Dolci ne combina parecchie in questo romanzo, diciamo che quasi si merita di morire. Anche se non ne fa tante. E quindi devo dire che nessuna delle conduttrici con le quali ho lavorato ha queste caratteristiche. È così, davvero così cattiva? No. Ma tu davvero, abbiamo fatto, Daniele ha fatto poco fa l'elenco di tutte le tantissime trasmissioni, ma com'è cambiata la vita dell'autore televisivo in questi anni? Perché qualche anno fa quasi non si citavano gli autori, adesso invece qualsiasi cosa succeda c'è sempre qualcuno che dice, ah vedi, c'hanno gli autori. Ma sai che è strano, perché è strano, perché prima, diciamo fino al 2000, noi autori li inventavamo anche programmi, non so come dire, e quindi magari sarebbe stato meglio che ne parlassero allora che adesso che riadattiamo formati. Ormai è quasi tutto un, la vita, sì, insomma, la vita poi, è tutto un format, dovrebbe cantare. Diciamo che poi la bravura dell'autore è adattarlo al gusto italiano e a farlo andare, insomma proprio la difficoltà vera di un autore è lo showrunning, insomma, di portarlo avanti, scrivere il copione, insomma, scegliere il cast e fare le cose. In realtà non voglio dire che non sia importante il lavoro che facciamo, diciamo che però vige abbastanza la legge di comprare formati stranieri e prendersi i diritti e rifarli in Italia. Tu hai detto che uno dei problemi, se non ho capito male, uno dei problemi della televisione italiana è il capoprogettismo. Sì, detesto. Mi piace molto, perché anche un po' in politica si sta facendo strada questo fenomeno. Basta trovare un capoprogetto e tutti i problemi sono risolti. Ma no, è una grassa scemenza, perché io quando facevo i programmi in passato non esisteva questa figura, perché il capoprogetto in realtà era il produttore, che era il produttore sia della parte appunto economica, ma soprattutto editoriale, quindi era lui che ti dava le linee guida, e poi c'erano dei bravi autori. Adesso si tende a dare a un capo progetto. Io devo dire che non sono mai stato capo progetto di niente, perché proprio se non del tuo romanzo, magari. Ma non me ne sì, ma nel senso che si lavora in, la televisione è proprio un posto dove si lavora tutti insieme, secondo me. Bello che la televisione è un posto dove c'è tanta cattiveria, ma anche si lavora tutti assieme. Bello, mi piace sì, questa cosa. Sì. A proposito di conduttori, questa settimana sì, è successo anche un qualcosa, po' a proposito di affanno, di ansia, di quei momenti che, che poi in realtà a me è capitato, è successo un po' a tutti quelli che devono andare anche in radio. Urca, se mi è capitato, cos'è successo questa settimana a Enrico Mentana? La base va, la base va da sola, la base. Ecco i titoli. Panico. No. L'Istat gela le speranze di ripresa. Nel primo trimestre dell'anno il PIL torna negativo dello 0,1%. In valore assoluto del prodotto interno lordo siamo tornati ai dati del 2000. E non ce la fa. Il dato affossa la borsa. Piazza Affari perde il 3,61%. No, non ce la fa, non ce la fa. Corsa, corsa. Torna sopra 180 punti. No. Non ce la faccio con i titoli, scusate. Povero, però sta benissimo. Voi. Poi dice sto benissimo. Ma non era tosse, era reflusso, secondo me, esofageo. Ha corso. Capita, ragazzi. Se uno, è chiaro che se uno è Cristiano Ronaldo, se una volta è un pochettino più lento nell'ultimo guizzo, viene beccato subito. È solo che purtroppo l'ansia, quando monta, quando sei in onda, il fiato c'è sempre meno. E lui ha detto, però i titoli ve li leggete da voi, ciao. Sì, ha fatto bene. Con tutta tranquillità, ha detto. Poi, che è molto elegante. Detto, poi, quando poi sono è ricomparso, detto, e tu sto benissimo, ha sorriso e via. Adesso tu ti sei dato ai dolci. Che meraviglia. Sì, no, fino, non solo ai dolci, che peraltro detesto, cioè, non li mangio. Sì, sì, io faccio Bake Off, vedo Knam, vedo dei dolci pazzeschi che fanno ogni giorno. Stiamo registrando la seconda edizione di Bake Off dopo il successo clamoroso della prima, e non ne mangio uno. E io non potrei mai lavorare salato. A Bake Off. Sì, sì. Però vabbè, sono belli da vedere, quindi. Colleghi ingrassati di 30 kg. Sì, una sono stagione. Beh, cioè sempre si mangia continuamente. Anche perché sai, durante beh, le preparazioni in televisione in genere, in questo periodo si mangia continuamente. È vero, però Bake Off ha una cosa un po' più delicata, di comforting, sì, di bellezza, di beauty shots. La gente non butta piatti per terra, insomma, quelle finalmente, cose. Diciamo, no, non ci sono. Dico solo finalmente. Non ci perché sono basta tanto litigare, dai, un no, po' di dolce. Io poi quello lo odio. State parlando quello di quello delle cucine. No, la cattiveria in cucina è una delle cose più inaudite, secondo me, anche dal punto di vista dell'autore. No, però guarda che è vero, che quelle cose che tu, uno può sembrare che siano esagerate, in realtà nelle cucine accadono. Ah, sì? Sì, secondo me sì. Inquietante. Sì, però. Sì, sì. Beh, sono molto particolari gli chef, quindi è anche lo stress, appunto, di dover consegnare dei piatti. Quindi forse il colpevole è uno chef. chef del giallo. Lo chef, chissà. No, non ci sono chef. No, il maggiordomo. Nemmeno maggiordomi ci sono. Il... Non si sa, non si sa. Bisogna leggerlo. Bisogna leggere per sapere perché è morta e come è morta. E chissà se qualcuno ha ucciso, non lo so, la presentatrice morta, che è Eda Dolci, ma che sì, soprattutto è il romanzo di Peppino Cerà, che questa sera è stato insieme a noi. Felicissima di averti avuto, perché io mi sono divertita come una pazza a leggere questo romanzo. Grazie, lusingato. È veramente super divertente. Allora è tutto per questa puntata di Radio Tube, per la puntata del sabato di Radio Tube, perché ci ritroviamo domani alle 15. Con lui, la logica non è sincera. La logica non è sincera, ma scopriremo domani per chi la logica non è sincera. Grazie a Fabio Cantadori in regia, ci ritroviamo domani alle 15. Ciao.